5 e. Ascolta e trasforma. Parlava con gli amici mentre aspettava l'autobus. Parlavano con gli amici mentre aspettavano l'autobus. Guardava la TV mentre pranzava. Guardavano la TV mentre pranzavano. Ascoltava la radio mentre cenava. Ascoltavano la radio mentre cenavano. Il professore spiegava mentre lo studente prendeva appunti. I professori spiegavano mentre gli studenti prendevano appunti. Il ragazzo giocava mentre la ragazza si riposava. I ragazzi giocavano mentre le ragazze si riposavano. La signorina cantava mentre usava il computer. Le signorine cantavano mentre usavano il computer.